Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Chissà quale tipologia di sacco avrà usato la Befana stanotte per raccogliere e andare a distribuire tutti i suoi doni a tutti quelli che hanno fatto i buoni. Allora, perché abbiamo in maniera anche un po' così inconsueta introdotto la nostra trasmissione? Perché riprendiamo un tema che ci è capitato anche di ritornare a toccare nei mesi passati. In particolar modo forse lo abbiamo fatto esattamente qualcosa come un anno fa. Fino al 1 gennaio del 2011, intanto vi do questa cifra, in Italia si consumavano 20 miliardi di sacchetti di plastica all'anno, avete capito, qualcosa come 20 miliardi, producendo di conseguenza rifiuti che impiegano ben 200 anni a decomporsi. Per adeguarsi a tutta una serie di normative europee è entrato in vigore il divieto di commercializzare questo prodotto, con l'unica possibilità per gli esercizi commerciali, perché chiaramente il nodo sta fondamentalmente lì, di esaurire le scorte in giacenza. 12 mesi dopo, sull'argomento resta ancora parecchia confusione. Il divieto non è stato inserito nel nuovo decreto mille proroghe, ma il ministro dell'ambiente Corrado Clini ha rassicurato non viene ripristinata in alcun modo la possibilità di usare i sacchetti. Prima di Natale poi si era parlato di nuovi criteri più severi sulla composizione dei sacchetti biodegradabili che hanno sostituito i vecchi shopper, poi non più confermati. Nel frattempo c'è chi fa notare che in circolazione ci sono ancora sacchetti di tutti i tipi e non sono davvero rispettosi per l'ambiente. Oltre al fatto che naturalmente chi ha cambiato la sua abitudine, naturalmente ha provato a non utilizzare per esempio al supermercato il vecchio tradizionale sacchetto di plastica, magari ha chiaramente modificato la sua abitudine comprando sacchetti di altro tipo, chiaramente ha fatto anche delle spese. E c'è addirittura chi contesta un'altra cosa, io me lo ricordo, questo è un aspetto che venne fuori nell'altra trasmissione che avevamo organizzato sull'argomento: se non posso più prendere il sacchetto di plastica tradizionale dal supermercato, dove butto la spazzatura? E allora Salva Danaio fa il punto della situazione, raccoglie le testimonianze sulle nuove abitudini degli ascoltatori, per cui oggi mi aspetto, anche se molti di voi si saranno presi una giornata di pausa anche da Salva Danaio, molte telefonate comunque, 800 24 00 24, perché vorrei che ci raccontaste come la pensate, che cosa avete fatto in questi mesi, anche se ancora non c'era nessun tipo di obbligo totale e assoluto sull'argomento, sul divieto appunto di commercializzazione di questo prodotto, del sacchetto di plastica per l'appunto. Avete cominciato ad utilizzare quelle di stoffa? Oppure scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, e siamo da qualche settimana anche su Facebook, il nostro profilo si chiama chiaramente Salvadanaio-Radio24. Allora, Silvia Ricci, ideatrice e responsabile della campagna Porta la Sporta, che è stata in questi mesi anche un po' il nostro pungolo nell'affrontare questo argomento. Silvia, buongiorno e bentornata a Salva Danaio, buona giornata e buon anno soprattutto. Grazie a voi. Buon allora, anno a tutti. E tra poco dovremmo collegarci anche con Giampaolo Angelotti, presidente della Federazione Italiana Esercenti Alimentaristi della Confesercenti. Nella scorsa occasione, nell'altra puntata, avevamo sentito anche Feder Distribuzione, quindi grandi centri commerciali. Insieme a Silvia poi faremo il punto della situazione su lo stato, in qualche modo, dell'avanzamento delle trattative, chiamiamole così, sul cambio di atteggiamento appunto dei grandi centri commerciali sulla distribuzione e l'utilizzo dei sacchetti di plastica per appunto inserire la spesa dei propri clienti. Allora, prima di cominciare a sentire anche le vostre idee su questo argomento, ma soprattutto vorrei sentire il cambio di abitudini o meno, se vi ha creato tanto disturbo, tanto disappunto, oppure se passare da un tipo di sacchetto ad un altro, a patto che chiaramente si trovi non meno in circolazione, vi ha creato tanto disturbo, grande problema. Prima appunto vi vorrei raccontare invece quello che succede oggi in borsa. Dopo i cali molto forti degli ultimi due giorni, che soprattutto a Piazza Affari hanno completamente cancellato invece i rialzi che si erano creati nelle prime due giornate della settimana, la borsa stamattina era partita con un modesto tentativo di rimbalzo fra i listini europei, che già fallisce a Milano, meno 0,15% adesso sul FTSE MIB. D'altronde, fino a quando Unicredit fa meno 10, meno 15 al giorno, come si fa a, come dire, a risollevare le sorti del listino che è praticamente composto per larga parte da titoli bancari. Unicredit anche in questo momento, meno 12%. Il gruppo era già partito male stamattina e poi erano state sospese appunto delle negoziazioni sulla società. Il titolo è finito in asta di volatilità, poi alla ripresa delle contrattazioni fatto meno 12. Peraltro, secondo quanto risulta all'agenzia di stampa del Sole 24 Ore Radio Core, la Consob dovrà verificare anche questo andamento di questi ultimi tre giorni e chiarire anche i contorni di eventuali operazioni speculative in corso che secondo Radio Core sarebbero state effettuate da hedge fund esteri, almeno le indiscrezioni porterebbero su questa strada, e appunto di conseguenza la Consob ha messo sotto osservazione l'andamento del titolo che tra ieri e l'altro ieri ha perso il 30%. Se oggi portiamo a casa un altro meno 12, almeno fino a questo momento, bisogna effettivamente mettere un po' un faro su questa situazione, che è la larga parte attribuibile all'aumento di capitale che parte lunedì, fatto a forte sconto. Il mercato non è piaciuto, però insomma erano in ogni caso condizioni che nel bene o nel male erano già state anticipate in precedenza, non è che lo sconto fatto sia poi doppio rispetto alle ipotesi preventive, è un po' più alto, ma è comunque intorno al range che era già stato individuato. Ieri è scattata anche la questione ungherese, dove Unicredit ha un business molto importante, però non riusciamo a capire se siano solo questi i motivi di questo calo così imponente. Popolare di Milano meno 7, Mediobanca meno 5, Monte dei Paschi meno 4,5, Ubibanca meno 2,53, Intesa meno 2,44, Popolare dell'Emilia Romagna meno 1,64, insomma anche oggi non se ne salva neanche uno di bancario. I titoli che vanno meglio: STM più 3,72 che beneficia dei dati di Samsung, Ansaldo più 2,45, Prismian più 1,94, Generali, Lottomatica più 1,7, Telecom in rialzo di 1,5. L'euro sul dollaro è sotto 1,28, l'euro continua ad essere minimi da 10 anni sullo yen, lo spread è a 520 abbondanti punti base. Direi che abbiamo terminato di rovinarci la giornata con la seduta di borsa. Direi che oggi possiamo tranquillamente cambiare completamente argomento, occuparci un po' meno di finanza, e appunto oggi parliamo di quel bando del quale avevamo tanto parlato negli scorsi mesi. Vi ricordate il bando dei sacchetti di plastica? Sentiamo a che punto è la loro eliminazione. Anche questa notte, come ogni anno, la Befana puntuale ha portato i suoi doni a buoni e cattivi. Non si sa bene però come li abbia trasportati sul suolo italiano. Di sicuro non con un sacchetto di plastica. Dal 1 gennaio 2011, infatti, come tutti sanno, nel nostro paese è vietata la commercializzazione degli shopper, tanto inquinanti quanto, almeno fino all'anno scorso, cari agli italiani, che si erano abituati a consumarne fino a 20 miliardi all'anno. Una cifra che diventa ancora più impressionante se si considera che impiegano ben 200 anni a decomporsi nell'ambiente. I vecchi sacchetti sono quindi stati sostituiti da borse fabbricate con materiali diversi, e per chi non può rinunciare all'usa e getta, sono arrivati i nuovi sacchetti biodegradabili. 12 mesi dopo l'introduzione delle nuove regole, però, non è facile capire chi si è comportato bene e chi no. Pare che si siano meritati una bella manciata di caramelle i supermercati, dove è avvenuta l'effettiva sostituzione dei sacchetti in polietilene con quelli ecologici, senza dubbio meno resistenti, ma completamente biodegradabili in 180 giorni. Più confusa la situazione nel caso di tanti negozi e bancarelle, dove talvolta circolano ancora i vecchi sacchetti, o più spesso si trovano finti sacchetti ecologici di bioplastica che contengono in parte componenti non biodegradabili. Sembrava pronto a consegnare un po' di carbone, a questo proposito, il ministro dell'Ambiente, con nuove e più severe disposizioni che avrebbero chiarito il campo. Se ne è parlato sotto Natale, ma per il momento la decisione è rimasta in sospeso senza ulteriori conferme. Un piccolo giallo, intanto, ha riguardato il nuovo decreto mille proroghe, dove il divieto dell'anno scorso non è stato ribadito, ma il ministro Clini rassicura: non viene ripristinata in alcun modo la possibilità di usare i vecchi sacchetti. Per questo 2012, insomma, la Befana avrà le idee ancora più confuse dell'anno passato, ma una cosa è certa: un bel sacchetto, figurato, di dolciumi va senz'altro a chi ha saputo cambiare le proprie abitudini e va a fare la spesa con la cara vecchia sporta riutilizzabile. A a questo finale nella scheda di Marco Lombardo, non me l'aspettavo proprio. Allora, per chi ha cambiato radicalmente le proprie abitudini sull'utilizzo dei sacchetti per andare a fare la spesa, si merita una bella calza piena di dolci. Silvia Ricci, ancora buongiorno. Io volevo ricordare un po' anche la genesi del nostro interesse su questo argomento, che è anche economico, anche se in apparenza potrebbe apparire non perfettamente in linea con i temi che tradizionalmente trattiamo a Salvadanaio, anche se parliamo pur sempre della spesa. Io mi sono imbattuta in Silvia Ricci quando ho scoperto della campagna Porta la Sporta qualche tempo fa, che per la verità si sta avviando a vivere la sua terza edizione, almeno nella settimana nazionale di Porta la Sporta. Si svolgerà ad aprile. Silvia, prima magari raccontiamo in che cosa consiste questo appuntamento e soprattutto come ti è venuto in mente appunto di attivarti con Porta la Sporta, quale tipo di, non dico sensibilità, hai sul tema ambientale, perché mi pare abbastanza evidente, ma che cosa proprio ti ha indotto a ricercare questa collaborazione con l'Associazione dei Comuni Virtuosi, il patrocinio del WWF, addirittura l'adesione a questa campagna del Touring Club Italiano, di associazioni come Italia Nostra e anche l'Associazione dei Consumatori Adiconsum? Bene, ci sono stati una serie, diciamo, di input che mi hanno fatto partire. Da una parte sono state le notizie che sono arrivate all'incirca nel 2008 sulla quantità di plastica dispersa nei mari, che si è scoperto esista anche nel nostro Mediterraneo. In secondo luogo la conoscenza dell'Associazione dei Comuni Virtuosi e l'idea di poter mettere insieme più soggetti che hanno l'interesse che avvenga un cambiamento verso abitudini ecosostenibili, perché comunque i limiti del pianeta di generare vita li abbiamo già superati da un pezzo. E quindi da lì è nato l'idea di collegare un cambiamento che tutti dobbiamo intraprendere come singoli individui, ma anche come aziende, come comuni, mettendo appunto insieme tutti questi soggetti e partendo da un ripensamento molto semplice su una delle, diciamo, delle abitudini tra virgolette sbagliate che inconsciamente facciamo tutti i giorni, cioè quella di prendere ogni volta un sacchetto monouso. La plastica è molto dannosa per l'ambiente, ma anche la bioplastica ha un suo impatto, e quindi si è deciso di impostare la campagna più che sulla scelta dei materiali, sul cambio di abitudini che generano diciamo poi problemi globali. Quindi da qui il coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e l'idea di creare questo evento annuale in cui si va a ribadire l'importanza di cambiare queste abitudini. L'evento di quest'anno passerà, diciamo, alla fase 2, anche se non tutti portano la sporta, ormai è chiaro che è un gesto importante che dobbiamo fare, e andiamo ad elencare una serie di altri gesti importanti che chi porta la sporta magari ha già iniziato, tra i quali ad esempio evitare gli imballaggi inutili quando compriamo al mercato comprando sfuso, ma anche acquistare solamente spazzolini a testine intercambiabili oppure rasoie a testine intercambiabili o bere l'acqua del rubinetto o acquistare detersivi sfusi alla spina. Quindi non solo il sacchetto di plastica, ma adesso ho cominciato ad esplorare anche altri ambiti un po' più larghi, un po' più ampi. Assolutamente, perché il sacchetto è la punta di un iceberg. In realtà bisogna andare a ridurre altro usa e getta e imballaggio inutile che provoca uno spreco e un'estrazione di risorse che è insostenibile. Quindi tutti i materiali, la plastica come la bioplastica, vanno dosati e usati dove ne abbiamo effettiva necessità. Quindi ecco, noi abbiamo comunque una nostra ricetta anche per il ministro Clini, se poi poi certamente gliela suggeriamo senz'altro. Mi veniva in mente, mentre ascoltavo tutto il tuo ragionamento, Silvia, che in apparenza può sembrare tutto molto semplice, no? Il cambiamento dell'abitudine. Che problema c'è nel non prendere il sacchetto di plastica al supermercato e utilizzare banalmente adesso le nuove buste appunto di stoffa che peraltro ci regalano in ogni posto, in particolar modo negli ultimi mesi da quando c'è stato questo cambio di direzione appunto anche nella normativa sull'utilizzo del sacchetto di plastica? Invece non è poi così banale, perché tante volte si parte per andare a fare la spesa, il sacchetto di stoffa lo si lascia a casa perché lo si dimentica, molto banalmente, per cui è chiaro che arriviamo lì, non è che non possiamo fare la spesa perché non abbiamo le buste, e allora ci carichiamo della tipologia magari della busta che il supermercato ci dà in quel momento, e adesso cercheremo di capire anche che caratteristiche caratteristiche hanno questi sacchetti, prima cosa, e poi non è stato facile anche negoziare, nonostante ci fosse una legge, questo cambiamento con gli esercizi commerciali, con la grande distribuzione. Silvia, mi ricordo che tu mi raccontavi qualche tempo fa quanta difficoltà avevi fatto a trovare anche un dialogo proprio con Federdistribuzione, con l'organizzazione che rappresenta le grandi insegne commerciali. Sì, allora rispetto al primo punto, continua a essere complicato per le persone ricordarsi di portare una sporta, ma questo fa parte di un modo diffuso che è stato un pochino indotto dal consumismo, nel senso non c'è bisogno di organizzarsi, basta avere il bancomat e poi in qualunque momento possiamo acquistare e fare. In realtà tornare alle vecchie abitudini che prevedono organizzazione e riutilizzo non si può agire in questo senso, però basterebbe un piccolo accorgimento, avere sempre una borsina ripiegabile nella borsetta e poi avere le borse in macchina. A me questo me l'ha insegnato la mia mamma, per esempio, che ne ha sempre 3 o 4 nella sua borsa, sempre pronte all'uso. Io ne avrò almeno una quindicina. Ovviamente l'esempio più virtuoso, ci mancherebbe altro. Addirittura quando non ho una borsa, esco semplicemente dal negozio con l'oggetto in mano, cioè ecco. non c'è niente di strano. Ma facciamo anche l'altra ipotesi, Silvia, che noi donne andiamo sempre in giro con delle borse, anche quelle per bellezza, di Mary Poppins, perché la mia è... possono contenere tutto. Esattamente, un pochino di spesa si può mettere anche lì dentro, a meno che ne so, la cosa del bagno schiuma, il barattolo, certo. Ecco appunto. Poi un altro aspetto che io penso che non sia sufficiente disincentivante è il prezzo, diciamo, dei sacchetti biodegradabili. Allora, a parole tutti si lamentano, costano troppo cari, però nei fatti, nella grande distribuzione, 5-6 persone su 10 portano la sporta, gli altri continuano a acquistare da 1, da 2, 3, 5 sacchetti che costano 50-60 centesimi, quando una borsa riutilizzabile lo stesso supermercato la vende a meno di un euro. Quindi questo è un pochino un dato di fatto che fa riflettere, e fa anche riflettere sul un'eventuale applicazione della norma che prevede quindi biodegradabile in tutto il settore alimentare. Se però le persone già nel supermercato, dove c'è questo aspetto non sufficientemente incentivante evidentemente di pagare il sacchetto, che cosa faranno nei negozi del piccolo commercio e nei mercati dove questi sacchetti verranno presumibilmente dati gratuitamente? Quindi questo è il motivo per cui bisogna agire molto su un cambio di abitudine, e soprattutto noi pensiamo che sia importante effettuare delle strategie di comunicazione tra i portatori di interesse, quindi le associazioni anche del commercio, la grande distribuzione, perché si arrivi a mandare un linguaggio univoco. Approfitto di Angeletti, le associazioni del commercio... Guardi, le posso dire che non lo troviamo al telefono, pensa un po', Silvia, non riusciamo stamattina neanche... Va bene, lancio comunque anche adesso ci riproviamo tra un po', sì, diciamo punto. Le associazioni del commercio nazionale non hanno assolutamente reagito alla nostra offerta di studiare insieme delle campagne di comunicazione, perché se a un certo punto tutti cominciamo a dire il sacchetto è giusto che vada pagato nel settore del piccolo commercio, per i negozianti sarà più facile accogliere questo invito, aderire a una campagna, Porta la Sporta USA fornisce assistenza gratuita. Se però questo messaggio, diciamo, non passa al consumatore, questo cambiamento non avverrà mai. C'è un po' di timore tra le aziende, sì, adesso Silvia ti lascio concludere, sì. Le aziende che producono i sacchetti di plastica e che magari chiaramente hanno visto con grossa preoccupazione anche questo cambiamento dal punto di vista legislativo nel nostro paese, ma perché era appunto una ovviamente un trasferimento anche di nuove normative europee, a queste aziende hai pensato anche nella tua campagna? È chiaro che magari la prima cosa che viene da pensare è riconvertite la vostra produzione, producete altro piuttosto che questo, sacchetti biodegradabili, ma è così facile anche fare una conversione di produzione in questo campo? Ma allora, io ho provato a chiedere. Allora, innanzitutto c'è l'esempio dell'Irlanda, dove il sacchetto in plastica dal 2007 costa qualcosa come 20-30 centesimi, e questo ha provocato ovviamente un crollo diciamo nella diffusione. Però mi è stato detto che le aziende si sono riconvertite alla produzione di sacchetti a rotolo per la spazzatura. E anche in Italia si sta registrando un incremento appunto di questo tipo di prodotto. Secondo me c'è una questione, ci vorrebbe chiarezza e dei tempi di attuazione, diciamo, di un eventuale decreto chiari, in modo che i settori abbiano il tempo necessario per riconvertirsi. Io penso che se si facesse, diciamo, un passaggio graduale in cui si decidesse che il settore alimentare, fermo restando che tutti devono ridurre il consumo dell'usa e getta con azioni incentivanti e disincentivanti, si potrebbe ad esempio dire che nel settore non alimentare si può utilizzare la plastica e la carta, però solamente se diciamo fatte con materiale totalmente riciclato. Allora Silvia, nel frattempo, ancora prima di discutere naturalmente di tutto quello che potrebbe essere possibile fare o si dovrebbe fare, ti faccio sentire anche qualche testimonianza di qualche ascoltatore per capire come la si pensa nell'opinione pubblica su tutto questo, perché vedo chi naturalmente senza alcun problema ha fatto un cambio di abitudine e chi invece addirittura si dichiara completamente in disaccordo con questo cambiamento. Allora sentirei subito il bastian contrario, che è Michele da Bari, che saluto. Buongiorno Michele e buon anno. Sì, naturalmente. Senta, io non è che sia basta al contrario, perché forse sono stato uno dei primi a comprare la cosiddetta sporta, cioè per sporta intendo quei sacchetti in vendita presso gli stessi supermercati, più utilizzabili però. Ora il problema però è un altro: prima si andava a fare la spesa, si utilizzavano 2-3 sacchetti del supermercato che puntualmente venivano utilizzati per la spazzatura. Infatti l'ho detto anche all'inizio, Michele. Ecco, ora invece andiamo a comprare i sacchetti di plastica per la spazzatura e fra parentesi sono ancora aumentati, perché prima c'era c'era solamente la spazzatura normale, ora c'è il sacchetto per l'umido, il sacchetto per la spazzatura normale, sacchetto. Oh, benissimo. Allora, io onestamente la mia preoccupazione è che non so, ho l'impressione che non ci sia effettivamente un minor consumo per quanto riguarda questi sacchetti di plastica, anzi, che possa essere anche maggiorato. Va bene Michele, allora sentiremo se Silvia Ricci appunto nel suo monitoraggio su questo fenomeno ha riscontrato la stessa cosa. Adesso però abbiamo già la prima pausa, poi sentiremo Giuseppina, Lucio, Fulvia, ci sono davvero tanti ascoltatori appunto che sono pronti ad intervenire. Nel frattempo stavo leggendo la segnalazione che mi ha fatto il mio collaboratore Marco Lombardo, che poi vi racconto, mi sembra incredibile. Salva Danaio. Vabbè, questa la devo dire perché dobbiamo anche salutarlo. Silvia, sai perché Giampaolo Angelotti, il presidente della Federazione Italiana Esercenti Alimentaristi, non riesce a intervenire oggi? Sì. Lo abbiamo recuperato, ha subito un furto nel suo negozio, poveretto, in questo momento lì con i carabinieri che sta gestendo questa Aiuto. Cosa che gli è capitata. Vabbè, chissà quanti sacchetti di plastica avranno usato i ladri per portargli via delle cose, poi ce le facciamo raccontare, lo salutiamo appunto con molto affetto. E vabbè, oggi Silvia te la vedi tu con i nostri ascoltatori e ti dico che nessun sono in tantissimi problema ad intervenire. Tra l'altro noi abbiamo messo sul nostro profilo di Facebook Salvadanaio - Radio 24 anche il link del sito di Porta la Sporta, per cui per tutti quei temi, e saranno tanti, che stamattina non riusciremo ad affrontare, potete vedere lì tutta la natura di questa campagna e tutti i suggerimenti appunto che possono essere messi in pratica per poter appunto cambiare anche il nostro stile di consumo da questo punto di vista. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Prima di farti rispondere Silvia, all'ascoltatore di Bari Michele, volevo metterci dentro anche un altro paio di ascoltatrici che chiaramente fanno magari la spesa un po' più dei loro mariti. Sentiamo un po' che cosa hanno fatto. Giuseppina, buongiorno. Giuseppina Monza Brianza, lei si chiama come la mia mamma, lo sa? Sì, buongiorno, buongiorno. Complimenti a voi. Ci dica. Niente, come dicevo al telefono, io la mia abitudine ho cambiata usando i sacchetti, che sono comodissimi, di stoffa. Ho un 7-8 sacchetti di stoffa che sono anche lavabili, e invece per le bottiglie chiedo dei contenitori, delle scatole al supermercato. Per la spazzatura, così. Giuseppina? la spazzatura uso quelli che sono in vendita, che non è che siano una cosa eccessiva, oppure se mi capita di avere dei sacchetti biodegradabili, quelli che posso usare per la spazzatura, per l'umido, per gli altri quelli normali, compro i sacchetti normali. Perfetto. Anche perché i sacchetti dei supermercati si rompono sempre. Sì, esatto. Tra l'altro, ecco, guardi, su questo, Giuseppina, c'è un ascoltatore che ci scriva proprio a proposito su Facebook, a proposito del fatto che la borsa biodegradabile, che è più leggera e quindi si rompe più facilmente. Lui dice: allora usate quelle per la spazzatura, visto che ne potete usare due, una dentro l'altra, addirittura la resistenza complessiva aumenta, non è poi così scomodo, e quindi abbiamo anche una scusa per prendere 1000 borse quando arriviamo in cassa, tanto poi serviranno tutte. Ci scrive Federico appunto su Facebook. Allora, prima di sentire gli altri ascoltatori, Silvia, ti preannuncio che c'è anche in linea il direttore scientifico, da quello che capisco, di un centro di ricerca che fa test per sacchetti biodegradabili, che vuole contestare un po' di cose che abbiamo detto. Ma prima di sentire Paolo ti chiedo un po' di osservazioni intanto sul tema della spazzatura, che sembra essere insormontabile per molte persone. Sì, allora, una domanda. Sapete perché si trovano tantissimi sacchetti di plastica dispersi nell'ambiente? Perché vengono dati gratis. Quindi sicuramente meno sacchetti dati gratis vuol dire meno plastica nell'ambiente. Dopodiché è chiaro che tutto quello che viene dato, diciamo, gratis viene sprecato. Poi i sacchetti della spazzatura non costano mediamente più di quanto costi un sacchetto biodegradabile, e si spera che nel futuro possano essere fatti in modo, diciamo, con uno spessore non impattante, oppure addirittura di plastica riciclata. Però sicuramente quello che succederà usando sacchetti a rotolo per la spazzatura è che si vedranno meno sacchetti di plastica abbandonati nell'ambiente. Hai sentito poi Giuseppina come ha fatto il suo cambiamento senza alcun problema, senza aver cambiato in maniera drastica appunto le sue abitudini. Io ci aggiungo anche un'altra cosa, che per la verità per Natale ne ho ricevuta anche qualcuna per regalo, cioè addirittura mia amica Valeria mi ha regalato la Friendly Bag in stoffa, che utilizzo, molto carina, molto colorata, per andare a fare la spesa, anche un costo molto contenuto, quindi come regalo di Natale abbiamo fatto anche queste belle figure. Umberto ci scrive: ma per la spazzatura qui a Treviso basta andare all'ecosportello del centro raccolta differenziata, ti vengono dati un tot di sacchetti sia per il secco che per l'umido. Qui chiaramente parliamo poi di comuni dove la raccolta differenziata è molto ben organizzata, e vi garantisco che sono più che sufficienti per l'esigenza domestica. Quindi no ai sacchetti di plastica, sia alla differenziata, e chiaramente sono due discorsi che devono andare di pari passo. Se si è un po' accorti, anche il secco è decisamente poco. Tra l'altro, Umberto ci ritorna anche sul tema che abbiamo affrontato nei giorni scorsi sugli ecocentri appunto, e su anche queste isole ecologiche. Allora, Paolo da Milano, buongiorno, che imprecisioni abbiamo detto? Ci aiuti ad essere più precisi? Buongiorno, spero di dare un soffio di chiarimento. Intanto un brevissimo intervento come cittadino: sono d'accordissimo sulle sporte della nonna o della mamma, nel mio caso della nonna, che sono il sistema migliore per eliminare i sacchetti, che in effetti provocano tutta una serie di inconvenienti. Io invece, come ricercatore, come scienziato, diciamo così, volevo intervenire su questo fatto, perché si parla sempre di biodegradabili. In realtà le cose sono un po' più complesse, spero di essere sufficientemente rapido e esaustivo. Sì, guardi, tenga sempre presente che la nostra trasmissione è dedicata al risparmio, non è una trasmissione sulla scienza, per cui le chiedo di essere molto semplice. Però, il discorso è che il sacchetto dovrebbe essere biodegradabile e compostabile. Se è solo biodegradabile è tutta una norma, se è biodegradabile e compostabile è tutta un'altra norma. In realtà nessuno fa questa differenza, e attualmente stanno circolando tutta una serie di sacchetti relativamente al fatto si vorrebbe imporre che fossero biodegradabili e compostabili. Che cosa comporta questo? Un piccolo flash: che se i sacchetti che attualmente vengono diciamo proposti come biodegradabili, che sono fatti essenzialmente di mais, di amido, diciamo parte di chi si occupa di queste cose, me compreso, è contraria, nel senso che è mais, e quindi sono risorse che andrebbero gestite diversamente e non dovrebbero andare nei sacchetti. Diciamo che questa questione dei sacchetti biodegradabili si trascina da molto tempo, con grave scorno per i consumatori, come avete evidenziato, che non sanno più che pesce pigliare, e in realtà la cosa più semplice sarebbe quella di eliminarli per l'uso che se ne fa, oppure riservare la plastica cosiddetta biodegradabile e compostabile ha degli usi più nobili che quelli del sacchetto della spazzatura, oppure comunque dedicare solo i sacchetti della spazzatura le peculiarità che questa molecola ha, e cioè anche rompersi facilmente, che insomma quando uno trasporta olio o bottiglie del supermercato a casa in generale ha delle difficoltà, usiamo questo termine, quindi non interessa molto un consumatore, si arrabbia e provoca altre cose. Quindi la precisazione che volevo fare è che biodegradabile non è un termine, un'accezione generale, bisogna definirlo bene, e purtroppo in questo caso oggi perché non ho tempo di spiegarlo, ma in generale sono due cose differenti e molta gente gioca su questo fatto. Noi che facciamo i test, semplicemente facciamo dei test che sono delle norme ben precise, UNI oppure ISO, che sono le classificazioni internazionali o nazionali, vediamo una serie di test con delle cose abbastanza allucinanti. E infatti, cioè che praticamente ciò che vi viene chiesto di testare per dare una certificazione di biodegradabilità in realtà non lo è, e da quello che capisco, Paolo, poi non sono assolutamente all'altezza di potermi confrontare con lei già su un tema così complesso, però io Paolo la ringrazio per il suo contributo, dando un'occhiata sul sito di Porta la Sporta. Credo che anche Silvia Ricci sia ben consapevole di questa confusione che a volte si genera banalmente prendendo in considerazione la terminologia delle cose. È chiaro che se io vado al supermercato e mi dicono assolutamente questo è biodegradabile, lo prenda, non si preoccupi, e poi magari non è detto che sia realmente così, devo trovare, e forse nella certificazione di questi sacchetti riesco a capire se è il biodegradabile vero, se è il compostabile, se non mi ricordo male il termine che ha utilizzato Paolo. Possiamo essere capaci anche attraverso la tua campagna, Silvia, di distinguere i sacchetti veramente biodegradabili, quelli che non danneggiano l'ambiente, che non vengono ingurgitati dai volatili, che appunto sono delle immagini anche travolte, anche terribili, che troviamo sui giornali, no? Di questi scheletri, di questi uccelli che quando si decompongono sulla spiaggia si trovano all'interno del loro stomaco questi sacchetti di plastica che addirittura mangiano scambiandolo per il cibo. Adesso ho fatto un volo abbastanza strano io, però è bene ricordare anche queste immagini qualche volta. Silvia, allora il sacchetto biodegradabile qual è? Allora, il sacchetto biodegradabile in genere ha un impresso, una certificazione che può essere compostabile oppure ok compost, e poi soprattutto si riconosce perché ha al tatto è vellutato, è morbido, al contrario del sacchetto di plastica anche additivato che rimane sempre molto rigido sostanzialmente. Poi anche l'odore è un odore che ricorda il mais o comunque un odore alimentare. Quello però che vorrei dire è che il sacchetto di bioplastica non è ancora non è detto che è abbandonato, cioè ad esempio se entra nei mari che non possa creare danni alla fauna marina, perché comunque ha un tempo di biodegradabilità che non è immediato. E quindi è comunque augurabile che i sacchetti, anche quelli biodegradabili, non vengano dispersi nell'ambiente. Allora, chi sentiamo adesso? Sentiamo Fulvia da Prato. Cos'è successo, Fulvia, nella sua città? C'è un buon esempio da questo punto di vista? Sì, buongiorno a tutti. Sì, io direi che la mia città sta facendo una buona programmazione in questo settore, tant'è che abbiamo il ritiro dei rifiuti porta a porta, e a tutti noi è stato dato un calendario al quale ci dobbiamo attenere in maniera piuttosto pedissequa, vale a dire ogni giorno si sa che cosa si deve esporre fuori della porta, e siamo stati anche tra l'altro forniti di sacchetti biodegradabili per l'organico, di sacchetti di plastica per la plastica, che poi ovviamente viene riciclata, e per la carta invece no, ognuno di noi dobbiamo, si deve provvedere con cartoni o sacchetti di carta contenenti la carta, giornali, certo, eccetera. No, tante volte poi adesso ascoltando anche le vostre buone abitudini, si tratta anche un po' di interessarsi a questi argomenti, di non essere completamente passivi anche di fronte a questi cambiamenti, non limitarsi solamente a leggerne sui giornali, ma poi attivarsi anche concretamente con il comportamento, no Fulvia? Sì, esatto. Per cui è diventato un'abitudine, direi. Io vedo fare la spesa sia al supermercato che nei negozietti, no? Dal panificio oppure dal fruttivendolo, vengono dati i sacchetti appropriati, o comunque le persone sono già provviste di sacchetto di stoffa, o come me una bella cesta di vimini che mi sono comprata in estate e che è diventata anche molto glamour per andare a farla spesa. Ma che bella, grazie Fulvia, buona giornata. Chissà se Prato peraltro è nell'associazione dei comuni virtuosi, ci sarà sicuramente. Dobbiamo fermarci credo per i suggerimenti perché in viaggio, poi andiamo a Leonardo da Roma, poi c'è un altro tema che ce lo pone un altro ascoltatore, sempre su Facebook, e oggi continuando a guardare Facebook non guardo neanche i messaggi, mi dispiace, ma adesso compenserò, che ci sollecita il trattamento anche di un altro tema. Allora, nell'area del supermercato dedicata alla frutta e alla verdura, lì si utilizza ancora un altro tipo di sacchetto, che è quello di plastica, che molto leggera, appunto completamente trasparente, ma quello è biodegradabile o no? Si scioglie rapidamente oppure è altamente inquinante? Perché nessuno ancora mi pare che ce l'abbia detto. Salva Danaio. Trovati in diretta, allora 800 24 00 24, per intervenire in diretta oggi in questa Salva Danaio, che è appunto in diretta anche oggi, perché anche se è Epifania è festa per tutti, la borsa è aperta e noi la guardiamo, e c'è un ascoltatore che ci scrive, Livio, che saluto con affetto. E a Piazza Affari che borsa stanno usando adesso? La borsa per le lacrime, Livio, probabilmente, per questo ritorno di questo trend negativo dopo che avevamo ben sperato all'inizio dell'anno. E invece Agnese da Ferrara ci chiede proprio, come altri ascoltatori, i sacchetti di plastica che si continua ad utilizzare nei supermarket per frutta e verdura. Che tipologia sono, Silvia, ricci? E anche questi saranno destinati appunto a sparire? Anche il guanto di plastica lì si utilizza, quindi c'è anche un altro problema. Certo, allora i sacchetti sono semplici sacchetti di polietilene, quindi è plastica. C'è qualche, diciamo, catena tipo Natura Sì che ha cominciato a sostituirli con sacchettini biodegradabili. La nostra iniziativa prevede anche una diciamo campagna che si chiama Mettila in Rete, che propone invece un retino riutilizzabile in cotone. Allora, poi stavo leggendo anche di un altro ascoltatore che ci scrive che le macchine, parlavamo prima delle aziende produttrici di sacchetti di plastica, che magari adesso, se queste verranno totalmente bandite, come potranno sopravvivere, che cos'altro potranno fare? L'ascoltatore ci scrive, le macchine che fanno le borse bio sono le stesse che fanno le borse di plastica normale, non è necessaria quindi nessuna riconversione radicale, un lavoratore in un'azienda di sacchetti. Sentiamo anche qualcun altro, allora chi c'era in attesa da un po'? Imma da Verona, mi piace molto sentire le signore su questo argomento. Imma, buongiorno. Buongiorno, ho sentito che l'hanno già detto, comunque i sacchetti della spesa prima non è che uno li prende, arriva a casa e li butta via, va riutilizzato, andava riutilizzato per la spazzatura, sì, infatti. Per il secco soprattutto. E adesso invece bisogna comprarli, Imma, però lei non adesso trova che magari... Adesso bisogna comprarli, in più... Cioè, non è che si buttano via per niente. Io avevo una scorta, perché a volte mi dimenticavo, costavano anche quelli, non erano proprio gratuiti. Per cui avevo una scorta e adesso la sto finendo, dovrò andare a comprare. E lo so, però come sistema, diciamo, un po' di educazione forse in più alle persone, che questi sacchetti sì, li puoi adoperare, li puoi riutilizzare per quello scopo, ma non lasciarli in giro. Lo so, Imma, sa com'è, siamo tutti bravi predicatori, poi razzoliamo molto male su tutto, e quindi bisogna continuare a tenere viva l'attenzione su questi argomenti, almeno secondo il mio punto di vista. E soprattutto se voglio intervenire, è ovvio che c'è la maggior parte delle persone non li abbandonava nell'ambiente, il problema è che tutti avevano in casa almeno un centinaio di sacchetti. Là. Adesso adesso con la raccolta differenziata spinta, io personalmente ne utilizzo da uno a due al mese per l'indifferenziato. Quindi si tratta semplicemente di aderire alla raccolta differenziata e anche il consumo di sacchetti, diciamo, per l'indifferenziato può scendere. Benissimo, Imma, grazie anche a lei per il suo contributo. Silvia Ricci, peraltro, a proposito della differenziata, ho notato nel mio condominio, perché ci sono state appioppate un sacco di multe su questo, che io faccio la raccolta differenziata e praticamente c'è ancora chi ha i sacchetti di plastica in casa e ci mette dentro per fare la raccolta e fare la separazione dei rifiuti all'interno della sua abitazione, per esempio proprio le cose di plastica, le butte di plastica, tutte le cose da buttare le mette in un altro sacchetto di plastica. Quando le andiamo poi a depositare nell'apposito contenitore che sta magari, che ne so, nel cortile del condominio, e non è che si tirano fuori le cose e il sacchetto lo si riporta a casa, si butta dentro tutto quanto così, e questo implica delle multe, perlomeno questo capita nel mio condominio. Quindi praticamente la busta di plastica non va neanche associata alla plastica da poter riciclare, da quello che capisco, no? Ma allora lì dipende un po' da, allora assolutamente la busta di plastica non va messa con il vetro, con le lattine, con la carta, ecco. Per quanto, ma anche nella plastica stessa, ecco, dipende un po' da quali sono i circuiti del riciclo. In genere alcuni comuni ritirano tutte le tipologie di plastica purché proveniente da imballaggio, quindi plastica che abbia contenuto del cibo o un prodotto, quindi non le bacinelle di plastica e quant'altro. In quel caso lì accettano sacchetti di plastica, film plastici e altri imballaggi. Intanto un ascoltatore ci ha precisato: cara Rosciani, i sacchetti sottili sono in polietilene HD, quelli delle borse in polietilene LD. Benissimo, siamo andati a casa oggi anche con questa ulteriore informazione chimica. Sentiamo adesso Giorgio dalla provincia di Milano. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a voi. Io sono un commerciante di sacchetti, volevo mettere un po' di chiarezza. Praticamente i sacchetti, diciamo, compostabili, cioè quelli biodegradabili, sono solo quelli in amido di patata e in amido di mais, quelli appunto un po' vellutati, molto costosi, costano fino a 4-5 volte di più di quegli altri, e oltretutto ci vuole, sembra, più energia per produrli che quelli normali. Perciò, quindi è questo è il motivo per cui chiaramente se un consumatore volesse utilizzarlo deve pagarlo un po' di più. Deve pagarlo di più. Può essere usato poi per metterci l'umido, perché sono nelle città dove viene fatta la raccolta dell'umido, sono apposta per la raccolta dell'umido, si sciolgono, hanno una scadenza, hanno un cattivo odore, mentre invece gli altri che vedete in giro, che sembrano i sacchetti di prima di plastica, sono sacchetti di plastica con un additivo che si chiama DW2, che chi vuole se lo va a leggere su internet, praticamente un additivo che è stato messo che rende il sacchetto biodegradabile in ambiente compostabile, cioè all'interno di una discarica, a determinate temperature e tutto. Ma questo è stato fatto perché non c'è materiale, a parte che dopo questa legge il materiale è andato alle stelle, immagino. Non c'è materiale a sufficienza, cioè se si fanno i sacchetti con l'amido di patate e l'amido di mais si andrebbe ad incidere nella fame nel mondo. E quindi insomma lei pone il problema da un altro punto di vista assolutamente pertinente ed interessante. Giorgio, in ogni caso il consumatore come fa a distinguere queste due tipologie? Ammettendo che sia uno proprio assolutamente pignolo, che vuole comportarsi al meglio e vuole utilizzare... No, lui per legge sulla borsa c'è scritto proprio l'articolo della legge secondo la quale questa borsa, diciamo, da cosa è composta e come va riposta. Tra l'altro leggo da alcune informazioni che ho che dovrebbe esserci proprio scritto un'attestazione, diciamo, di certificazione della biodegradabilità come... Ok, compost o compostable? Sì, ma questo andremo a cercarlo. Per le borse che si usano per l'umido. Comunque, le dico, la Germania, ad esempio, la plastica non è vietata perché il consumatore è sicuramente più accorto di noi e non che quando una cosa è gratuita la butta e se ne frega e tutto lì è... Adesso ci sono tutti altri problemi, sarà sempre la solita banalità, ma io credo che a Berlino e Francoforte le situazioni di Napoli non le vedremo mai, e qui però c'è tutto un altro tema da affrontare. Allora, grazie Giorgio, grazie anche a lei al suo contributo. Commerciante di sacchetti, Silvia, hai sentito quante sollecitazioni abbiamo trovato, segno che comunque abbiamo colto nel vivo, è un tema molto interessante. Tra l'altro in tutte le cose che magari anche relativamente alla campagna porta la sporta che ci ci terresti a dire per poter dare qualche informazione concreta ed utile ai nostri consumatori? Ci siamo dimenticati di qualcosa fino a questo momento, anche perché giustamente abbiamo dato spazio anche agli ascoltatori? Ma diciamo il messaggio che la campagna vuole diffondere è sostanzialmente uno. Non bisogna andare tanto a fare una disquisizione su quale materiale è meglio di un altro, ma piuttosto andare a cambiare i nostri comportamenti che sono improntati allo spreco di risorse. E questo non solo riferito al consumo di imballaggi, ma anche ad esempio alla mobilità, e quindi preferire la bicicletta e l'uso del trasporto pubblico. Questo è il messaggio di base, al di là di tutto. Poi ovviamente riteniamo che un decreto di questo tipo debba essere gestito bene, quindi andare a specificare dove può essere usato, dove deve essere usato il sacchetto biodegradabile e compostabile, e invece dove si possono usare altri materiali che comunque devono essere sempre preferibilmente provenienti da riciclo. Solo così si va, diciamo, a bloccare lo sfruttamento delle risorse. Allora, un altro messaggio è quello di creare delle sinergie. Adesso la campagna è interessata a creare delle sinergie con tutti i portatori di interesse, quindi grande distribuzione, associazioni del commercio, in modo che ai cittadini arrivi questo messaggio chiaro. Va bene dimenticarsi una volta la sporta e usare il monouso come eccezione, ma considerare che il monouso è già essenziale in altri settori, e quindi dobbiamo veramente andare a eliminarlo dove non è indispensabile. Allora Silvia, io devo chiudere fra un minuto, non riesco a sentire gli ascoltatori che sono in attesa. Scriveteci, perché vi farò interagire con Silvia Ricci molto volentieri, so che lei sentirà sicuramente tutte le vostre considerazioni sull'argomento. La legislazione a questo punto a che punto è in Italia, dunque, dopo lo stop del decreto mille proroghe, che avrebbe dovuto dare una spinta ulteriore, no, alla conversione delle sacchette di plastica? In 30 secondi, Silvia, se ce la fa. Ma siamo ancora nel limbo, sostanzialmente, non ci sono dei decreti attuativi che definiscano sanzioni, e questo è il motivo per cui ci sono queste zone grigie, questa vendita di sacchetti finti biodegradabili, quindi è necessario che si intervenga con chiarezza. Con grande chiarezza. Nel frattempo andiamo a ribadire il messaggio di tornare a riutilizzabile. Benissimo, allora la terza edizione della settimana nazionale di Porta la Sporta si svolgerà dal 14 al 22 aprile. Io vi invito ad andare a dare un'occhiata al sito, appunto, Porta la Sporta. Peraltro devo fare complimenti a Silvia Ricci, perché è molto bello, costruito veramente con grande dettaglio ed esteticamente molto, molto interessante. Anche grazie a Silvia Ricci per essere stata con noi, e Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, e oggi finalmente Valeria Bernardi in assistenza tecnica, che non vedevo da tre secoli. Da Deborah Rosciani intanto buona giornata, ci risentiamo tra un po' di nuovo per la borsa, e stasera a Focus Economia. Buona giornata a tutti e buona Befana a tutti.